565. Babà, questo è un dolce che vuol vedere la persona in viso. Cioè, per riuscir bene, richiede pazienza ed attenzione. Ecco le dosi. Farina d'Ungheria o finissima, grammi 250. Burro, grammi 70. Zucchero in polvere, grammi 50. Uva sultanina, detta anche uva di Corinto, grammi 50. Uva Malaga, a cui vanno levati gli acini, grammi 30. Lievito di birra, grammi 30. Latte o meglio panna, decilitri 1 circa. Uova numero 2 e un rosso. Marsala, una cucchiaiata. Rum o cognac, una cucchiaiata. Candito tagliato a filetti, grammi 10. Sale un pizzico, odore di vaniglia. Con un quarto della detta farina e con un gocciolo del detto latte tiepido si intrida il lievito di birra e se ne formi un pane di giusta sodezza. A questo si incida col coltello una croce, non perché esso e gli altri così fregiati abbiano paura delle streghe, ma perché a suo tempo diano segno del rigonfiamento necessario, ad ottenere il quale si pone a lievitare vicino al fuoco, a moderatissimo calore, entra un vaso coperto in cui sia un gocciolo di latte. E intanto che esso lievita, per il che ci vorrà mezz'ora circa, scocciate le uova in una catinella e lavoratele con lo zucchero. Aggiungete di poi il resto della farina, il panino lievitato, il burro sciolto e tiepido, la marsala e il rum, e se l'impasto riuscisse troppo sodo, rammorbiditelo col latte tiepido. Lavoratelo molto col mestolo finché il composto non si distacchi dalla catinella. Per ultimo gettateci l'uva e il candito e mettetelo a lievitare. Quando avrà rigonfiato, rimuovetelo un poco col mestolo e versatelo in uno stampo unto col burro e spolverizzato di zucchero a velo misto a farina. La forma migliore di stampo per questo dolce è quella di rame a costole, ma badate che esso deve essere il doppio più grande del contenuto. Copritelo con un testo, onde non prenda aria, e ponetelo in caldana o entro un forno da campagna a pochissimo caldo per lievitarlo, al che non basteranno forse 2 ore. Se la lievitatura riesce perfetta, si vedrà il composto crescere del doppio, e cioè arrivare alla bocca dello stampo. Allora tirate a cuocerlo, avvertendo che nel frattempo non prenda aria. La cottura si conosce immergendo un fuscello di granata che deve si estrarre asciutto. Nonostante, lasciatela ancora prosciugare in forno a discreto calore, cosa questa necessaria a motivo della sua grossezza. Quando il babà è sformato, se è ben cotto, deve avere il colore della corteccia del pane. Spolverizzatelo di zucchero a velo. Servitelo freddo.